ma Luca sta voce, che male che fa. È un grido d'amore, speranza e passione. E mo balla per me, zingara mia, sbatte sto tacco in coppa a sta terra, a dome portate. Questa è una lunga storia d'amore, è una fuga, è gioia, è dolore, è la mia ruga. Balla per me, zingarella mia, balla per me. O vestita s'accorcia e s'allonga, sei il mio sogno che s'arroba a memoria. Ah, come a Lucca sta musica. Fonni scoglie e stumare, ma la campietta, ma pare sonna. Questa è vita gitana, chi sti o coro chiù zingaro che si può sentire. E tu sbatte sto tacco, e muove sta veste, sulle onde del Mediterraneo te veghe danzare. Ma che bella festa. Ma come a Lucca sta voce. E che gioia mi dà, com'è forte sta musica se fa sentire. Balla, balla e canta, te prego, pure se chiove non ti fermà. Tu sei la zingara che di notte sotto la luna mi legge la mano e mi aiuta a campare. Terre lontane, mo chiudo gli occhi e mi metto a sonnare. Le sue corde accarezzate e frustate, a volte sfiorate, toccano le corde del nostro Mediterraneo, bagnano sabbie e sbattono su scogli senza tempo, modellano le dune dei piccoli deserti nascosti nelle nostre anime, fino a donarci rinascita, in un turbinio di emozioni senza fine che ci regalano l'essere nella sua più nuda varietà. Aco Bocina, figlio del vento, è tutto questo. E adesso, toccando quelle corde ad occhi chiusi, lui ci parlerà, ci trasporterà, ci navigherà in un mondo che ogni anima vorrà sentire. Ci donerà la musica e resterà il potere che solo l'arte ha sul divenire. Alex Algi questa sera, il maestro Aco Bocina. Thank you. Thank you. Thank you. Siamo in pochi, ma c'è un'energia speciale. Stasera lo vedo in gran forma il maestro. Grazie a voi, grazie. Pochi ma buoni. Si può alzare un po' il volume del microfono? No, ti prego, restiamo ancora un po' così, lasciati guardare. Anche quel fuoco davanti al tuo corpo non la smette di tremare. È stato meraviglioso. Sai, io a cena ti ho spiato, mi hai dato le spalle e ti sei incamminata. Lo faccio sempre. Rubo ogni volta qualcosa di te, perché nella tua assenza io possa ricordare, fissare nella mente ogni tuo particolare, vivere le mie fantasie, la gioia di un adolescente che ha pianto troppo e ora voglia di giocare. Sei bella, lo sai, ogni volta prenderti e godere senza fine, qualcosa che disseta ma ti lascia senza meta. No, ti prego, non muoverti ancora, lasciati accarezzare. Le tue gambe muovono dei passi, uno slancio di eleganza che non smetterò mai di ammirare. Sì, lo so, così rischio di farti addormentare, è notte fonda, sei stanca, non hai più voglia di farti corteggiare. Ma con te io non ho tregua, mi hai turbato il cuore, adesso te ne stai lì, così beata. Magari per una volta mi dirai che sono stato bravo, magari parlerai di me a chi non mi ha capito. Quanto tempo ci è voluto? Ti ho cercata tra mille profumi, ho scoperto le maschere da mille volti, ho nutrito demoni con ali bianche. Seguivo la tua scia, ma le orme davanti a me si riempivano di sabbia. Finché una notte ho pianto su una piccola spiaggia, gridando alla luna che finalmente fosse sincera, che si mostrasse fedele compagna. E sei arrivata tu. Sei uscita dall'acqua spaccando il mare come fosse uno specchio, in frantumi, tutto quello che mi opprimeva come un terribile malocchio. Ti vedevo sempre più vicina, bella, bella come la fata di Pinocchio. Non avevi la bacchetta, ma mi hai accarezzato, ho chiuso gli occhi, ho trattenuto il fiato, respirare era un peso troppo forte e sono crollato. Ti prego, ora lasciami fumare. Mi trascino questo vizio come a ricordare. Non riesco a smettere di pensare. Fare l'amore con te è una gran bella magia. L'amante più fedele, io lo giuro, e rinnego la bugia. Ma ora il tuo cuscino è freddo. Ma sei andata via? Ho capito. Vuoi che ti segua? Mai più senza la mia poesia. Thank you. Thank you. Questo è un pezzo che facciamo sempre alla fine, perché è un pezzo che ho scritto più che altro pensando a lui, un po' a tutto il mondo degli artisti, ma soprattutto a lui. E si chiama proprio così, Artisti. Chi regala sorrisi punta al risveglio dei delusi e magari rafforza il sogno degli illusi. Chi frusta le corde diffonde la magia delle note, magari ad occhi chiusi. Chi scrive solo parole perché vi restino nel cuore. Chi urla perché si canti insieme dolcemente. Senza amore non siamo niente. Chi danza con il proprio corpo e disegna nell'aria qualcosa che rimane oltre la materia. Chi apre il suo teatro, un miracolo perché il dono sia svelato. Artisti, un applauso per non essere dimenticati. Gli artisti cercano solo un abbraccio come gli innamorati. Artisti, la solitudine è un peso che soffoca come l'acqua quando ormai arriva al naso. Artisti, trasformano in sogno la tristezza dell'inganno. L'emozione è come la più calda coperta per l'inverno. L'abbandono e il digiuno, il castigo più grande per il dono. E allora si grida alla festa ogni volta che si incontra un artista. E allora si battono le mani perché donano passione, porgono la speranza del domani. Ma chi l'ha detto che non si può nutrire un'illusione? E allora ci si abbraccia tutti insieme perché l'artista soffre, il suo dono è miele. E allora si prega anche per lui, perché il cielo lo protegga. L'arte non è un copione che si legge. L'arte è l'anima che si eleva. L'arte è la più bella cima che si erge. Grazie. La nostra Maya è una new entry, perché insomma le stiamo affidando un compito particolare. Sarà intonerà dei canti per noi gitani e poi danzerà sempre il flamenco, insomma la musica gitana. Poi c'è il fedelissimo da 30 anni col maestro Acopocina, che è Manuel Ferrando Augusto. Ragazzi, il suo curriculum è troppo lungo, cercatevelo e leggetevelo su internet. Lui è semplicemente un grande compositore, il numero uno, figlio del vento, Mister Acopocina. Cultura con quello che possiamo fare. Grazie di cuore.